Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Torniamo indietro. È tempo di raggiungere gli autocarri. Il cielo comincia a sbiancare. 3 di mattina. Spira un venticello fresco. L'ora smorta rende grigi i nostri volti. In fila indiana brancoliamo avanti fra trincee e buche e torniamo nella zona della nebbia. Kaczynski è inquieto. Cattivo segno. «Che hai, Kat?» domanda Krop. «Vorrei essere già a casa». A casa vale a dire alle baracche. Ormai manca poco, Kat, ma lui è nervoso. Non so. Eccoci alle trincee d'approccio e poi ai prati. Spunta il piccolo bosco, qui conosciamo il terreno a palmo. Ecco il cimitero del battaglione cacciatori coi suoi tumuli e le sue croci nere. Ma in questo istante si ode dietro a noi un sibilo che si gonfia, scroscia, tuona. Ci buttiamo a terra e 100 metri davanti a noi si leva una nuvola di fuoco. Un minuto dopo una seconda esplosione solleva una porzione del bosco. 3-4 alberi sono proiettati in aria e volano in schegge. E già fischiano altre granate con un rumore di caldaia a vapore. Fuoco intenso. «Coprirsi! Coprirsi!» grida qualcuno. La prateria è piana, la foresta troppo distante e pericolosa. Non si vede altra copertura che il cimitero e i tumuli delle tombe. Picorriamo tastoni nel buio e subito ciascuno è come incollato dietro una tomba. Era tempo. Nell'oscurità si scatena un delirio, tutto ondeggia e in furia. Cose nere, più nere assai della notte, precipitano gigantesche su di noi, passano sopra di noi. Il fuoco delle esplosioni getta sprazzi sul cimitero. Non v'è scampo in nessuna parte. Nel lampeggiare delle granate arrischio un'occhiata alla prateria. Sembra un mare in burrasca. Le vampe dei colpi saltano su come getti di fontana. Attraversare un simile inferno è impossibile. Il boschetto scompare, calpestato, lacerato, stracciato. Dobbiamo rimanere qui, nel cimitero. La terra scoppia davanti a noi. Dovunque piovono zolle. Sento uno strappo, ho la manica lacerata da una scheggia. Stringo il pugno, nessun dolore, ma ciò non mi rassicura, le ferite non dolgono che più tardi. Passo la mano sul braccio, graffiato, ma sano. Uno schiocco al cranio da farmi perdere la conoscenza. Ho in un lampo il pensiero. Non svenire. Affondo un momento in una pozzanghera nera e ne emergo subito. Una scheggia ha colpito il mio elmetto, ma veniva da così lontano che non l'ha perforato. Mi asciugo il fango sugli occhi. Davanti a me è spalancata una buca che riconosco confusamente. Le granate non ricascano facilmente nello stesso buco, perciò mi ci posso calare. Pronto mi allungo stendendomi piatto sulla terra, ma ecco un altro fischio. Mi rannicchio, cerco istintivamente di coprirmi. Sento qualcosa alla mia sinistra, mi ci avvinghio, essa cede. Io gemo, la terra si apre, la pressione dell'aria tuona nelle mie orecchie. Io mi appiatto sotto la cosa che cede e legno, stoffa, copertura, un riparo, un miserabile riparo contro le schegge che schioccano giù. Apro gli occhi. Le mie dita hanno avvinghiato una manica, un braccio, un ferito. Gli grido qualcosa, non risponde. Un morto. La mia mano afferra qualcos'altro. Schegge di legname. Allora capisco. Siamo coricati in un cimitero. Ma il fuoco è più forte di ogni altra cosa. Esso annulla le riflessioni. Io mi appiatto ancora più in fondo sotto la bara. Essa ha da proteggermi. Vi sia pur dentro la morte in persona. La fossa sta spalancata davanti ai miei occhi che vi si aggrappano come se fossero mani. In un salto bisogna che io sia dentro. Ma ecco, qualcosa mi percuote in viso. Una mano afferra la mia spalla. È il morto che si risveglia. La mano mi scuote. Io volgo la faccia. Nel bagliore di un secondo distingo il viso. Il viso di Kaczynski. ha la bocca spalancata e urla qualcosa che io non arrivo a sentire. Continua a scrollarmi, si avvicina e in un momento di minor rumore le sue parole mi raggiungono. Gas! Gas! Gas! Passa la voce! Metto mano alla maschera. A qualche distanza da me qualcuno è disteso. Non penso più ad altro. Bisogna dirglielo. Gas! Gas! Io grido, mi trascino vicino a lui. Lo picchio con l'astuccio della maschera, ma non sente nulla. Ancora, ancora, lui non fa che rannicchiarsi. È una recluta. Guardo disperato Kat, che ha già messo la maschera. Allora anch'io sciolgo la mia. L'elmetto ruzzola accanto, me la metto sulla faccia, raggiungo l'uomo, la sua maschera è a portata della mia mano, l'afferro, gliela infilo sulla testa, lascio la presa e di colpo mi trovo in fondo alla fossa. Lo schiocco sordo delle bombe a gas si mescola al fragore degli esplosivi. Tra le esplosioni si ode l'allarme della campana, dovunque ripetuto dai gong, dai tam-tam metallici. Gas! Gas! Gas! Un tonfo accanto a me, un altro ancora. Io pulisco gli occhiali della mia maschera, appannati dal respiro. E Kat, Krop, chi altri ancora? Siamo coricati in quattro, vigili, ansiosi, e cerchiamo di respirare più debolmente che ci sia possibile. Questi primi momenti con la maschera calata decidono della vita e della morte di un uomo. Sarà impenetrabile? Ho presenti le orribili cose viste all'ospedale, gli asfissiati che soffocando giorno per giorno vomitano pezzo per pezzo i polmoni abbruciati. Respiro con cautela, la bocca compressa contro la valvola. Ecco che il vapore mefitico striscia sul terreno e scende in ogni avvallamento. Come uno smisurato mollusco, esso si insinua, affonda i tentacoli nella nostra buca. Tocco Kat col gomito, sarebbe meglio arrampicarci fuori e coricarci distesi sul terreno, anziché qui, ove il gas si raccoglie più denso. Ma non è possibile. Comincia una seconda granuola di fuoco. Non sono più i pezzi che sparano. È il suolo stesso che va sossopra. Con uno schianto, qualcosa di oscuro precipita in mezzo a noi e ci sfiora, interrandosi, un feretro lanciato in aria da un'esplosione. Vedo che Kat si muove e mi avvicino a lui carponi. Il feretro ha schiacciato il braccio disteso del quarto uomo che è con noi nella buca. Istintivamente il poveretto cerca di strapparsi con l'altra mano la maschera, ma Krop è pronto ad afferrargli il braccio e glielo ripiega contro le reni, mantenendovelo a viva forza. Intanto Kat e io ci accingiamo a liberare il braccio ferito. Il coperchio della cassa è aperto e rotto, sicché è facile strapparlo. Gettiamo fuori il cadavere che come un sacco cade a terra. Poi cerchiamo di disincagliare la parete inferiore della cassa. Per fortuna il ferito perde conoscenza, sicché anche Albert ci può aiutare. Non abbiamo più bisogno di tante cautele. Lavoriamo a tutta forza finché la cassa, con un gemito, non cede alla leva delle nostre palette. Ormai si è fatto più chiaro. Kat prende un pezzo del coperchio, lo pone sotto il braccio fracassato e intorno avvolgiamo tutte le bende dei nostri pacchetti di medicazione. Più di così per il momento non si può fare. Ho la testa che mi ronza e mi rimbomba sotto la maschera, mi pare che debba scoppiare. I polmoni sono sforzati, debbono di continuo respirare la medesima aria calda e corrotta. Le arterie delle tempie si gonfiano, pare di soffocare. Una luce grigiastra filtra giù fino a noi. Il vento soffia sopra il camposanto. Mi sporgo sull'orlo della fossa. Nel crepuscolo sporco vedo davanti a me una gamba strappata col suo stivale perfettamente intatto. Tutto questo scorgo in un baleno, ma a pochi metri di distanza vedo ora qualcuno alzarsi. Pulisco gli occhiali che per l'emozione subito mi si appannano di nuovo. Quello là non porta più la maschera. Aspetto qualche secondo. Egli non stramazza al suolo, si guarda intorno e fa qualche passo. Vuol dire che il vento ha disperso il gas, che l'aria è libera. Allora Rantolando, strappo anch'io la maschera e cado lungo disteso. L'aria fluisce in me come una corrente d'acqua gelata. Gli occhi mi vogliono schizzare fuori dalle orbite. L'onda mi sommerge e per un momento perdo conoscenza. Le scariche sono cessate. Mi volto alla fossa e faccio segno agli altri. Si arrampicano su, si strappano le maschere. Prendiamo il ferito. Uno di noi gli sostiene il braccio legato alla sua assicella e frettolosamente, inciampando ad ogni passo, ci avviamo. Il piccolo cimitero è ridotto un cumulo di rottami. Feretri e salme giacciono qua e là. Poveri morti. Li hanno uccisi una seconda volta, ma ciascuno di quei corpi stracciati ha salvato uno di noi. La cinta è devastata. I binari della Decauville alzano in aria i loro monconi. Ecco qualcuno lungo disteso. Ci fermiamo. Solo Crop procede innanzi col suo ferito. Questo qui a terra è una recluta. Ha l'anca sporca di sangue. È talmente esaurito che io metto mano alla borraccia ove tengo del tè con rum. Ma Kat mi trattiene la mano e si china sopra di lui. Dove ti hanno colpito? Egli muove gli occhi. È troppo debole per rispondere. Gli tagliamo con precauzione i pantaloni. Egli geme. Buono, buono, figliuolo. Ora andrà meglio. Se ha un colpo nel ventre non bisogna dargli da bere, ma non ha rigettato, ciò è buon segno. Gli mettiamo il fianco a nudo. È una poltiglia sanguinolenta con schegge d'osso, colpita l'articolazione. Questo povero figliuolo non camminerà mai più. Gli passo una mano inumidita sulle tempie e gli faccio bere un sorso. Gli torna la vita negli occhi. Ora soltanto vediamo che anche il braccio destro gli sanguina. Kat svolge dei pacchetti di medicazione, li stira più in largo che può perché coprano tutta la piaga. Non abbiamo nient'altro, perciò cerco di strappare al ferito un pezzo delle sue mutande per servirmene come di benda. Ma non porta mutande. E allora lo guardo meglio. È il biondino di poco fa. Intanto Kat ha preso su un cadavere altre bende che avvolgiamo con precauzione sulle ferite. Io dico al ragazzo che ci guarda fisso: stai quieto, ora andiamo a prenderti una barella. Allora apre le labbra e mormora: restate qui. Torniamo subito, dice Kat. Andiamo a prendere una barella per te. Non si vede se abbia capito o meno. Geme come un bambino e supplica: non andate via. Kat si guarda intorno e mormora: non sarebbe il caso di prendere una pistola e farla finita. È dubbio se il ragazzo possa sopportare il trasporto. In ogni caso, non durerà che pochi giorni. Ma tutto quello che ha sofferto fin qui e nulla in paragone di questo tempo che gli rimane di passare prima che muoia. Ora è intontito, non sente quasi niente. ma fra un'ora sarà un groppo gemebondo di insopportabili sofferenze. I giorni che può ancora vivere non saranno per lui che una delirante tortura. E a chi giova che questi giorni egli li viva o no? Io chino la testa. Sì, Kat, dico, bisognerebbe prendere una pistola. Da qua, fa lui, e si alza. È deciso, lo sento. Ci guardiamo intorno, ma già non siamo più soli. Davanti a noi si raccoglie un gruppetto. Da tutte le fosse e le buche spuntano teste. Allora andiamo a prendere una barella, ma Kat scuote la testa e mormora: poveri figli di mamma, poveri figli innocenti. Le nostre perdite sono minori di quanto si potesse pensare. 5 morti e 8 feriti. Non è stata che una breve raffica di fuoco. 2 dei nostri morti giacciono in una tomba scoperchiata e non abbiamo altra fatica che di ricoprirli. Torniamo indietro, silenziosi, in fila indiana. I feriti sono trasportati all'ambulanza. Il mattino è torbido e grigio. I portaferiti corrono qua e là con numeri e foglietti. I feriti gemono. Comincia a piovere. In un'ora di marcia abbiamo raggiunto gli autocarri e ci arrampichiamo su. Ora ci stiamo più comodi che nell'andata. La pioggia si fa più forte. Spieghiamo dei teli da tenda e ce li stendiamo sulla testa. La pioggia vi scroscia sopra e cola in rigagnoli da una parte e dall'altra. I carri guazzano per le buche piene d'acqua e noi, in uno stato di dormiveglia, ci lasciamo dondolare di qua e di là. Davanti sul carro, 2 soldati tengono 2 lunghi bastoni biforcati e badano ai fili telefonici che pendono attraverso la strada, tanto bassi che porterebbero via la testa se i 2 uomini non li infilassero a tempo coi loro bastoni e non li tenessero sollevati sopra di noi. Udiamo il loro grido: attenzione, filo! E quasi dormendo ci pieghiamo sulle ginocchia per poi raddrizzarci nuovamente. Monotoni traballano i carri, monotoni si alternano i gridi, monotona scroscia la pioggia. Essa scorre sulle nostre teste e laggiù sulle teste dei morti e sul corpo della piccola recluta dalla ferita troppo grande per il suo esile fianco e sulla tomba del povero Kemmerich e sui nostri cuori. Scoppia una detonazione, non si sa dove, e subito ci riscuotiamo, gli occhi già sbarrati, le mani pronte a proiettare i nostri corpi fuori dai carri, nei fossati lungo la strada. Ma è un falso allarme. Monotono risuona il grido: attenzione, filo! Ci pieghiamo sulle ginocchia e ritorniamo nel dormiveglia. ただ一粒の水滴。